Da Radio Padania Libera, buona Padania a tutti. Va ora in onda Padania Misteriosa. Buongiorno, ben ritrovati con Padania Misteriosa, al microfono Alfredo Lissoni, ultime puntate estive, poi troveremo un'altra collocazione, la settimana prossima riprendiamo con la consueta programmazione e devo dire così, oggi sono un pochino in vena di Amarcord, perché io che da giovane, da piccolo, vivevo in campagna, vedevo il cielo bello limpido, quando passava qualche aereo si lasciava una scia, ma ora in questi ultimi anni devo dire che il cielo è talmente pieno di scie che mi viene da pensare che ci sia qualcosa di strano nel cielo. Io non ho una risposta, per la verità, sono meravigliato, incuriosito da un fenomeno che è stato definito delle scie chimiche, in molti ce l'hanno richiesto, noi ne abbiamo parlato in diverse occasioni. E noi oggi abbiamo in collegamento telefonico uno dei massimi esperti di questo inquietante fenomeno, che è Rosario Marcianò, che saluto. Ciao Rosario. Ciao carissimo, grazie per avermi chiamato. Eccomi qua. Senti Rosario, allora spieghiamo che cosa sono queste cose che si vedono nel cielo, perché comunque destano preoccupazione, una volta non si vedevano. Beh, per fortuna nostra destano preoccupazione in qualcuno e comunque in un quantitativo di persone senza dubbio maggiore rispetto agli anni passati. Anche se però comunque bisogna precisare che ad oggi, diciamo negli ultimi 2-3 anni, le metodologie di rorazione, chiamiamole così, si sono evolute, per cui durante le giornate di alta pressione non vengono più usati composti persistenti, per cui le persone anche sensibilizzate al problema pensano che le irrorazioni si siano interrotte, quando invece queste si concentrano soprattutto durante la notte, mentre di giorno vengono adoperate scie cosiddette non persistenti, che però sono sempre da considerarsi aerosol dispersi a bella posta. Ecco Rosario, quindi da come ci stai dicendo tu, in buona sostanza ci sono questi aerei che lasciano queste scie nel cielo, ma da come ci stai raccontando adesso stanno facendo in modo di non farsi beccare. Sì, infatti, questa poi è una dimostrazione indiretta che in realtà non stiamo parlando del fenomeno delle scie di condensa, come sono sempre state spacciate sia dagli enti ufficiali come la NASA, sia dall'Aeronautica Militare Italiana, come anche dalle risposte del governo alle varie interrogazioni che sono state fatte negli anni, ma si tratta di un fenomeno di guerra ambientale che comunque viene in qualche modo dissimulato per cercare di mantenere nascosta la faccenda il più possibile. Ecco, senti, andiamo per gradi, tanto abbiamo quasi una mezz'oretta, perché devo dire che io questo fenomeno più di tanto non l'ho seguito. Mi ha stupito molto quando proprio in questa radio avevamo ospite un generale della NATO, il generale Fabio Mini, gli ho buttato lì la questione più generica degli UFO, la sua risposta è stata ufficialmente non c'è niente, ma la versione ipocrita è che non esiste niente, invece sappiamo che esistono sia gli UFO che le scie chimiche, detto proprio in soldoni. Quindi un generale della NATO che mi viene ad ammettere a una radio politica che il fenomeno c'è, mi solleva poi mille altri dubbi, cioè chi sta facendo queste cose e perché non lo dice? Ma guarda, io ripeto sempre che la guerra ambientale in atto può essere la punta dell'iceberg di progetti più sofisticati nei quali vengono coinvolte varie entità politiche, governative e militari e in ambito scientifico. Soprattutto comunque lo scopo principale delle irrorazioni che avvengono ormai a livello mondiale, fatta eccezione veramente ormai pochissime zone della Terra, del globo, sono motivi legati ad esigenze da correlare alla tecnologia dei satelliti e di radar in alta risoluzione, che funzionano appunto nel range della banda KA, microonde ad elevata frequenza, e che vengono anche detti satelliti radar ad alta risoluzione. Queste tecnologie non funzionano correttamente, e è confermato anche dal generale Mini, che personalmente dice questi radar con la nuvolosità naturale e quindi con la nostra atmosfera umida, comunque con nubi che contengono acqua, queste tecnologie, questi radar e questi satelliti sono ciechi. Quindi i militari hanno risolto questo problema disperdendo metalli igroscopici in atmosfera che impediscono o limitano al massimo la formazione di nuvole naturali o comunque di formazioni imbrifere, cioè che portano pioggia, concentrando le piogge semmai in zone strategicamente meno importanti, e da qui quindi fenomeni violenti, e invece evitando che avvengano precipitazioni o anche che solo si formino cumuli da bel tempo nelle zone di maggiore interesse strategico militare o comunque anche civile, perché non dimentichiamo che queste tecnologie sono anche ad uso e consumo dei civili, quindi nell'ambito della TV digitale, della tecnologia UMTS, wireless e via discorrendo. Cioè, ma Rosario, fammi capire, quindi in buona sostanza per tenere pulito il cielo per i loro interessi economici avvelenano la terra, il pianeta. Esatto, sì, è proprio così, non si pone nessun problema. Tra l'altro non sono mie supposizioni, ma sono corroborate da studi scientifici che abbiamo anche ben pubblicizzato, diciamo così, ben divulgato sul nostro sito tankerenemy.com. E quindi si tratta non solo di tesi di laurea ma anche di interi trattati che trattano, scusa il gioco di parole, proprio della inseminazione igroscopica, cioè prosciugante delle nubi da bel tempo, perché queste sono foriere possibilmente di piogge se dovessero svilupparsi e diventerebbero cumulonimbi. Quindi per evitare che questi radar e questi satelliti smettano di funzionare come si deve, vengono disperse queste sostanze, questi elementi metallici, questi metalli pesanti, per far sì che la loro tecnologia funzioni al meglio. E io voglio ricordare il nostro numero di telefono per intervenire e parlare con Rosario Marcianò, che è lo 0266203529. Rosario, mi viene in mente una cosa, perché negli anni 90, quando il sottoscritto non lavorava per Radio Padania, ma anzi era con la concorrenza, ero con la sinistra, avevo tanti contatti con amici nei paesi dell'est, e già all'epoca mi avevano accennato esperimenti di questo tipo, quindi mi sa che i due blocchi hanno portato avanti le stesse, non dico le stesse tecnologie, ma comunque le stesse finalità. Sì, in effetti alcuni ricercatori puntano ancora il dito sui cosiddetti americani, no? È sì. Vero che noi come Italia siamo una colonia statunitense, questo non lo nega nessuno, però queste sono tecnologie che vengono ormai usate da tutti, cioè dai russi, dai cinesi, dai thailandesi, dagli italiani, dagli americani, quindi non si può dire sì, sono aerei americani, è colpa degli americani. Ecco. Questa è una tecnologia ormai acquisita da tutte le aeronautiche, da tutti i governi, e viene adottata senza nessun problema. Da qui poi è facile capire come il problema delle irrorazioni della guerra climatica sia così ben nascosto, perché tanto gli interessi sono innumerevoli. Prendiamo una telefonata allora, pronto? Buonasera signor Lissoni, al suo spettabile ospite, sono Alex di Sassari. Ciao Alex. In riferimento per quanto riguarda queste famose scie chimiche di cui si parla molto ma si sa poco, io ho letto su internet che rilasciano al suolo una specie di ragnatela bianca, e che questa ragnatela poi è stata analizzata, che chiaramente contiene delle sostanze chimiche. Io questa specie di ragnatela, però chiaramente chiedo conferma eventualmente all'esperto, l'ho trovata sul parabrezzo della macchina e non riuscivo a toglierla, sembrava tipo cingomma, erano delle strisce bianche che sembrava praticamente che c'era il vetro affilato. Niente, tutto qua. Volevo gentilmente un parere dall'esperto, se possibile. Grazie Alex, devo dire che anche un amico di Milano mi ha segnalato lo stesso fenomeno, addirittura ha raccolto questi campioni e anche filmato il tutto. Alex, torna in questo discorso delle chemtrails? Assolutamente. Il CICAP, il Comitato Italiano per lo Studio dei Fenomeni sul Paranormale, che notoriamente è un comitato che ben organizza la disinformazione in Italia e che nega il fenomeno delle cosiddette scie chimiche, il CICAP afferma che si tratta di tele di ragni volanti. Ovviamente non è così, si tratta invece, e lo può dimostrare anche l'esistenza di diversi brevetti sulla fabbricazione di polimeri artificiali che hanno la stessa resistenza e la stessa consistenza delle tele di ragno, si tratta appunto di in tecnologia legata alla nanotecnologia militare, per uso militare. Tant'è vero che la DARPA, che è l'ente che si occupa della strategia per quanto riguarda le nuove tecnologie per il Pentagono, ha prodotto questi polimeri che sono il risultato dell'incrocio di un particolare tipo di batterio, e qui vediamo anche le infezioni che si sono verificate in Germania ed in Italia. Questo batterio è l'Escherichia coli, modificato geneticamente, con l'uso di un gene di un particolare tipo di capra, e quindi la realizzazione di questi polimeri estremamente resistenti viene anche adottata nella dispersione via aerosol tramite aeroplani, poiché questi polimeri vengono usati come vettori. Ovvero sia, già che i metalli pesanti, seppure in nanoparticolato, ricadrebbero al suolo troppo velocemente, questi vengono aggregati a questi polimeri, che vengono usati così come i soffioni la natura adopera per portare i semi e i pollini in giro trasportati dal vento, né più né meno. Quindi questi polimeri servono a mantenere in quota il più tempo possibile i metalli pesanti che vengono dispersi a bassa, media ed alta quota per appunto realizzare degli strati artificiali di ionosfera utili a, come abbiamo detto, a scopi militari e civili. Ecco, c'è un'altra telefonata per Rosario Marcianò. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Dunque, allora io ci credo veramente a queste scie chimiche, perché non è normale che ci siano delle scie che si incrociano tipo sottana scozzese, tanto per dire, per fare un esempio. Poi ho sentito anche, mi sembra di aver letto, che queste scie chimiche sono rilasciate apposta anche tipo psicofarmaci, per invidire un po' la gente, per renderla un po' incapace di reagire anche. E mi sembra anche di aver sentito dire che vogliono vietare di fare orti, una disposizione europea di non molto tempo fa, di non fare orti, perché adesso non ho capito bene, magari niente, questo non vorrei mica farvi ridere su questo argomento. No, ma adesso ecco. Sentiamo Rosario, va bene, grazie, buona giornata. Rosario? Mi potresti riassumere un attimo, perché ho sentito malissimo le dichiarazioni del nostro ascoltatore. Sì, l'ascoltatore faceva notare che c'è anche una disposizione europea che vieta gli orti, e questa effettivamente la ricordo anch'io, gli orti privati, anche perché queste cose poi manderebbero delle sostanze che rimbambirebbero la gente. Ora, visto quello che c'è sul pianeta, viene un po' da crederci in questa cosa, non lo so, succede allora, anche questo. Intanto, sì, ti ringrazio. Intanto preciso che rispetto a questo argomento non è questione di credere o non credere, ma è questione di osservare e conoscere. Quindi se si conoscono gli argomenti, se si conosce bene l'atmosfera, la fisica, se si ha una memoria storica, si capisce ovviamente che qualcosa non va. Approfondendo la questione è chiaro che si ha una consapevolezza che effettivamente si sta verificando quanto viene detto anche in questo istante in cui ci stiamo, stiamo discorrendo. Per tornare alla questione dell'ascoltatore, effettivamente è così, cioè purtroppo noi sappiamo che dall'Unione Europea, dalla firma del Trattato di Lisbona, dalla firma del cosiddetto Codex Alimentarius e via discorrendo, c'è tutta una sequenza di leggi che sono state approvate purtroppo anche dai nostri parlamentari a livello europeo, che limitano grandemente la libertà del singolo cittadino. Tra queste libertà ultimamente è venuta fuori anche una legge che vieta di commerciare sementi naturali, o comunque limita fortemente la commercializzazione di sementi che non siano state controllate, registrate e verificate dagli organismi della Comunità Europea. Chiaramente questo è un meccanismo che serve ad agevolare l'introduzione, soprattutto in Italia, delle sementi geneticamente modificate dalla Monsanto, come anche dalla BASF e da altre aziende OGM, perché sappiamo che in Italia comunque l'italiano non è tanto favorevole all'introduzione di queste sementi chiaramente non solo dannose ma anche estremamente deleterie a livello economico per i singoli contadini, perché l'ho preciso, queste sementi sono sterili, quindi ogni anno vanno riacquistate. Detto questo, è chiaro che tornando al discorso dei polimeri. Ecco, aspetta, Rosario, no, ti fermo su questa cosa perché avevo un'altra telefonata in linea. Oggi le linee sono molto calde, quindi prendiamola subito. Vabbè. Pronto? Pronto, Alfredo? Sì, buongiorno, ciao. Sono Massimo Spaccioli, ciao, come va? Carissimo, bene. Tu dici tutto? Abbastanza. Senti, visto che qui si usano un sacco di parolone, sì, vorrei almeno un minuto o due per spiegare un po' la cosa. Dici. Prima di tutto, io queste scie. Dunque me le raccontava già mio padre durante l'ultima guerra con i bombardieri in alta quota, e c'erano già le scie, quelli erano occupati a fare ben altro che bombardare. Un momento, fatemi parlare, eh? Sì. Poi dopo sono entrato, come sai bene, 34 anni in servizio in aeronautica militare, difesa aerea, nulla osta Cosmito Secret, che è il massimo, salvo il need to know, che è quello che è la necessità di conoscere. Sì. Quindi, lavorando nella difesa aerea a radar, dovevo sapere per forza di cose tutto quello che volava. Ora, questa balla delle scie chimiche, permettetemi, perché sono anni che scrivo anche sui forum, è una vera balla. Gli aerei sono quintuplicati, i motori sono più potenti, gli aerei viaggiano più in alto, quindi fanno molte più scie di una volta. Poi, ho sentito il signore che diceva che si incrociavano qua e là. Allora, a terra ci sono i radiofari che guidano gli aerei, i punti di riporto elettronici. Logicamente passa un aereo, fa una scia, se si trova nelle condizioni meteo adatte, la scia persiste, quindi fa una scia, ne passa un altro con la rotta che interseca con l'altra, fa un'altra scia, possono trovarsi anche cinque scie e formano un asterisco. Allora lì tutti col dito per aria, guarda lì, ma nessuno sa queste cose. Invece per quelle parallele o reticolo è la stessa cosa, passa un aereo sul radiofaro, il vento le sposta di lato, ne passa un altro, fa una scia parallela e così via. Ho è capito. Tutto qui che hanno. Poi se si vuole una prova, con se non marciano e tutti gli altri, che usano un sacco di paroloni, polimeri e tutto, basta osservare questo, quando le scie sono molto corte, sono belle giornate, non succede niente. Quando sono lunghe, persistenti, anche per ore, si allargano fino a formare dei cirri, state tranquilli che nel tempo di 8, 18, 24 ore cambia il tempo. Ho capito, va bene, grazie più, Massimo, buona giornata. Ti ringrazio, sentiamo la risposta di Rosario Marcianò. Allora, è fantastico vedere come questi disinformatori siano così impegnati anche durante queste interviste, sono sempre i soliti soggetti che danno spiegazioni veramente ridicole e divertenti. Intanto cominciamo dall'inizio. Gli aerei del secondo conflitto mondiale bombardavano a quote sempre mai superiori ai 4.000 metri. Questo perché si era notato all'inizio che bombardando da elevata quota non si riusciva a centrare i bersagli, per cui vennero date istruzioni sia da Churchill sia dal comando statunitense, quando entrò in guerra successivamente, di eseguire bombardamenti a bassa quota. A bassa quota chiaramente abbiamo dei livelli di temperatura che non possono assolutamente portare a nessun tipo di formazione di scie di condensa. Tra l'altro vorrei sapere com'è possibile che quando arriva uno squadrone di bombardieri per bombardare una certa zona, il cittadino che deve mettersi al riparo contro questo bombardamento invece cosa fa? Osserva gli aerei anziché mettersi al riparo nei rifugi. Questa è bellissima. Tra l'altro anche mio padre all'epoca in cui poteva ancora testimoniare di queste cose mi ha appunto chiarito questo aspetto, che non è indifferente. Volavano molto bassi questi aerei e si vedevano bene nei dettagli, come succede adesso a noi. Infatti questi aerei volano proprio nell'ambito delle operazioni di cloud seeding igroscopico, volano a bassa quota, cioè a quota cumulo, e quindi a quote non superiori ai 2000 metri. A quella quota le temperature sono così elevate che la condensa non si può formare. In secondo luogo, la persistenza e la non persistenza. Intanto la NASA dice che le scie persistenti possono persistere ore o anche giorni, ma la NASA non può e non ha mai spiegato il motivo per cui questo fenomeno si possa verificare. Perché non l'ha mai spiegato? Perché non è assolutamente possibile da un punto di vista fisico spiegare la persistenza di una scia, in quanto che bisognerebbe ipotizzare valori di umidità relativa in sovrasaturazione sull'acqua e quindi sempre in aumento sopra il 100% di umidità relativa, e dovremmo arrivare a valori sempre più ampi a mano che la scia si espande. Invece casualmente proprio alle quote elevate, quindi dagli 8.000 metri fino ai 13.000-14.000, l'umidità relativa è sempre prossima allo 0%. Invece, per essere precisi, affinché una scia di condensazione si possa formare, e comunque una vera scia di condensazione dura alcuni secondi e non minuti o ore, questa deve avere dei parametri fisici che devono coincidere, cioè ci devono essere almeno 40 gradi centigradi sotto zero, valori di umidità relativa vicino o superiore al 70% e bisogna appunto che vi sia una quota elevata. Però ripeto, ad alta quota l'aria è sempre molto secca. Ecco, la Rosario, ti fermo un attimino, Rosario, prendiamo un'ultima telefonata per te, poi ci fai un po' un riassunto. Sì, magari un altro soggetto del genere. Ma non lo so, vediamo. Pronto? Pronto? Vediamo. Buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno, ci dica. Ciao, saluto Lissone, sono Pino da Torino, saluto anche Marcenotti. Io faccio parte del RIP. Volevo dirle, a parte ringrazio per l'interessamento di Marcello che sta lottando su questo problema che è grossissimo, allora io mi chiedo, ma perché, scusi, in Parlamento sono state fatte queste interpellanze parlamentari e non ci hanno dato dei chiarimenti, delle spiegazioni certe su questo problema? Probabilmente non sanno cosa dire o non vogliono esporsi, no? Poi ci sono varie problemi che io ho avuto specialmente personalmente, sono andato dall'oculista e mi ha detto l'inquinamento atmosferico le provoca di lacrimazione agli occhi. Ma dico, ma allora cosa devo fare? Cosa? Niente, se lo deve tenere. Poi ho fatto gli analisi al sangue e mi hanno trovato l'altissimo valore del sangue di alluminio, di bario e di altri metalli. Cioè io cosa ho lavorato nell'alluminio, cioè ho lavorato solo nelle fabbriche, io ho lavorato sempre all'aria aperta. Cioè sono le conseguenze dell'inquinamento, penso, no? Chiaro. Grazie Pino. Ecco Rosario, in casi come questi, perché va bene, uno può litigare se la scia, se il reticolo è fatto da più aerei, se ci sono più aerei o meno, però quando uno si trova nella pelle qualcosa, com'è la situazione, com'è la faccenda? Sì, ma infatti l'ascoltatore giustamente faceva un'osservazione corretta, tant'è vero che se ognuno di noi, compresi i disinformatori, facesse un'analisi del capello che viene detta a mineralogramma, scoprirebbe che il suo sangue è imbibito di metalli pesanti e in primis vediamo proprio la presenza dei metalli che vengono usati nella guerra ambientale, cioè alluminio, bario, manganese, stronzio, e questi sono i metalli a maggior presenza nel capello che verrebbe analizzato, quindi da qualche parte logicamente vengono e non ci si può dare spiegazioni semplicistiche come sì, però l'alluminio normalmente si trova nel terreno perché noi poi ce lo ritroviamo nei capelli. Quindi è vero che noi abbiamo fatto anche dei test con un analizzatore di nanopolveri e abbiamo verificato che a seguito delle attività di aerosol clandestine la presenza di nanopolveri aumenta considerevolmente, quindi c'è una stretta correlazione tra le irrorazioni diurne e notturne e la presenza di nanoparticolato tossico e cancerogeno in atmosfera. Rosario, abbiamo un paio di minuti, ma so che sono state fatte interrogazioni parlamentari in tutto il mondo, non si è mai arrivata a nulla? Beh, certamente no, perché è chiaro che ognuno ha il suo interesse, c'è anche poi da tener conto che la paura da parte di certi soggetti di perdere i propri privilegi o di avere guai anche magari inferiori ai guai che ho avuto io e che ha avuto mio fratello, sicuramente preferiscono negare. C'è da dire però che il presidente Napolitano, che vediamo che fa e disfa governi come vuole, quindi penso che tanti problemi a decidere non ne abbia, però qualche anno fa in risposta ad una cittadina aveva detto che comunque le attività relative al fenomeno scie chimiche erano comunque sottoposte a leggi e regolamenti per cui lui non poteva farci niente. Che bello. Se queste attività sono sottoposte a leggi e regolamenti vuol dire che non si tratta di scie di condensazione. Va bene. Rosario, ricordiamo il tuo sito internet. Benissimo, allora il blog è www.tankerenemy.com e poi abbiamo il canale video che è www.tanker-enemy.tv. Benissimo, io ringrazio Rosario Marzanò per essere stato qui con noi, grazie Rosario. Ringrazio te e la redazione tutta, grazie ancora, buongiorno. Grazie, e il prossimo appuntamento con Padania Misteriosa sarà domani alle ore 16 con Mauro Biglino.